元音的发音。 a a gallo gallo vacca vacca carota carota patata patata 练习 mamma mamma papà papà fama fama lana lana tana tana sala sala la lana è morbida la casa è lontana. Ada balla nella sala. Anna canta la ninna nanna. 谚语 Proverbio. Come il cane che abbaia alla luna.